2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 3 e 4 gennaio 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024 @radio24.it, scritto in cifra 2024 @radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it e anche questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast che, come sempre, vi consigliamo di utilizzare, quindi vi consigliamo di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast di Radio 24, una modalità molto semplice, innovativa per utilizzare contenuti audio, ma in rete trovate anche contenuti video erogati in modalità podcast. All'inizio dell'anno si dicono, scrivono sempre molti buoni propositi per i 12 mesi che ci attendono, si fanno previsioni, auspici, si suggeriscono spesso ad altri obiettivi di ogni genere. Beh, potremmo anche a 2024 fare una lunga lista di cose che dovrebbero accadere o che probabilmente accadranno nei prossimi mesi. Ci limitiamo a dire che forse la cosa più importante oggi, parlando di internet, è il coinvolgimento di tutta la popolazione in quella che è sicuramente, che molti definiscono, la più grande rivoluzione degli ultimi 30 anni. Oggi il nuovo disagio sociale, o comunque uno dei nuovi disagi sociali, è non avere la possibilità di collegarsi ad internet. Ci arrivano spesso email a 2024 che lamentano appunto questa impossibilità e quindi bisognerà fare qualcosa o comunque aumentare gli sforzi per coinvolgere tutta la popolazione, per ridurre il cosiddetto digital divide, o con una espressione molto simpatica dei francesi, la fracture numérique, la frattura digitale. Prima di parlare di alcune cose accadute nei giorni scorsi e quindi poi di presentarvi anche gli ospiti di questa settimana, vi annuncio che la prossima settimana ci saranno due appuntamenti da segnalare negli Stati Uniti. Entrambi sono sulla costa ovest, quindi a 9 ore di fuso orario dall'Italia. La prima è sicuramente più importante e molto attesa, è il Consumer Electronics Show a Las Vegas, qua siamo nel deserto ma comunque vicini alla costa ovest, e anche il Macworld a San Francisco, e quindi qua siamo sì sulla costa della California. Due appuntamenti di cui parleremo ampiamente la prossima settimana, quindi nella puntata del prossimo sabato 10 a 2024 su Radio 24. Con il nuovo anno, Tiscali, e questa è una delle prime notizie dell'anno, ha sospeso in Italia il servizio IPTV, quindi la TV erogata via rete ADSL, un servizio lanciato a maggio, un business che non verrà però abbandonato, dovranno trovare una soluzione alternativa, il tutto verrà presentato con il piano industriale che dovrebbe essere annunciato nelle prossime settimane. Così scrive la società di Cagliari, precisando anche che il servizio continua ad essere invece operativo in Gran Bretagna. Tra l'altro ricordiamo che i servizi di IPTV lanciati da Tiscali in Italia sono basati su una piattaforma che è stata acquistata proprio in Gran Bretagna, nazione nella quale le operazioni di Tiscali funzionano molto bene e la maggior parte dei ricavi della società sarda arrivano proprio dalla Gran Bretagna. Sapete che Tiscali è in trattative con parecchi potenziali acquirenti delle strutture della parte britannica, trattative che ancora non hanno portato a nulla, quindi siamo sempre in attesa di novità. Ora parliamo di Wikipedia o Wikipedia, la popolare enciclopedia gratuita di internet. Dietro a questo grande progetto di successo c'è una fondazione non profit che si finanzia grazie alle donazioni volontarie. Questa fondazione si chiama Wikimedia o Wikimedia, ha sede a San Francisco negli Stati Uniti e per funzionare ha un budget ogni anno di circa 6 milioni di dollari. La maggior parte di questi soldi è spesa per assicurare il funzionamento dell'infrastruttura tecnologica tecnologica, pensate ai server, anche alla capacità di banda che serve per far sì che poi quando uno digita una voce, fa una ricerca su Wikipedia, la pagina arrivi in maniera molto veloce. Il tutto per garantire una buona funzionalità a quello che è, pensate, l'ottavo sito web più visitato al mondo, dati aggiornati a questa mattina, ma comunque Wikipedia è sempre tra i primi 10 siti più visitati al mondo. Perché ne parliamo questa settimana? Perché fino a circa 7-8 giorni fa la raccolta fondi si era fermata a circa 4 milioni di dollari e il ritmo di nuove donazioni era rallentato di molto. Allora Jimmy Wales, che è il fondatore di Wikimedia e quindi poi l'inventore anche di Wikipedia, aveva lanciato un appello su internet per mantenere gratuita e libera dalla pubblicità la più grande enciclopedia online. Diceva: se volete che il progetto di Wikipedia continui così come lo conosciamo oggi, beh, c'è bisogno di mettere mano al portafogli. Negli ultimi giorni, pensate, in 50.000 hanno risposto donando online 2 milioni di dollari e portando così a 125.000 il totale dei donatori in tutto il mondo e a 6 milioni e 200.000 il budget raccolto nell'anno, anno fiscale che si conclude alla fine di giugno. In effetti, se ci pensiamo, molti di noi usano Wikipedia e danno quasi per scontato che esista, ma pochi si pongono il problema di come questi progetti di questo genere possano continuare a vivere e vivere soprattutto liberi da qualsiasi condizionamento esterno. La pubblicità è uno di questi in alcuni casi. Saluto Frida Brioschi, che è presidente della Wikimedia Italiana. Benvenuta a 2024. Grazie, buongiorno. Beh, diciamo subito che questo è un progetto che si basa su volontari, anche voi in Italia siete volontari, esiste un gruppo di persone che coordina i lavori di Wikipedia e delle altre iniziative che nascono all'interno della Wikimedia Foundation, ma servono comunque soldi, denaro per fare funzionare un nucleo di persone che lavora a tempo pieno negli Stati Uniti, se non sbaglio. Esattamente, alcuni anche da remoto, però soprattutto gravitano tutti attorno a Wikimedia Foundation e sono le persone che tengono in piedi la struttura organizzativa, per cui da una parte gli sviluppatori, da un'altra parte le persone che si occupano della raccolta fondi, di gestire i rapporti con la stampa, di cercare nuovi donatori. Si tratta grosso modo di 23 persone in questo momento. Sì. E poi ci sono i costi strutturali. Certo, sono elevatissimi. Il mantenimento, anche perché se pensiamo che questo è uno dei siti più visitati al mondo, anche solo l'infrastruttura per erogare questo servizio è un'infrastruttura molto costosa. Per quanto riguarda l'Italia, esistono server o comunque capacità di banda per il nostro paese o tutto è in altri luoghi? No, è tutto in altri luoghi. Fino a grosso modo un mese fa la struttura era principalmente negli Stati Uniti, c'era una ventina di server o poco più in Olanda e un cluster in Corea. In questo momento è stato dismesso il cluster in Olanda, per cui è quasi tornato tutto negli Stati Uniti. Quindi quando accediamo a Wikipedia, insomma, accediamo a pagine che risiedono oltre oceano. Due cose sul funzionamento di Wikipedia: sappiamo che questa è un'enciclopedia che nasce e si sviluppa, cresce grazie al contributo degli utenti della rete, di alcuni utenti della rete che scrivono concretamente le voci di questa enciclopedia. Ci puoi spiegare come funziona e soprattutto, una cosa di cui si discute spesso, come viene garantita la buona qualità, che l'esperienza insomma ha dimostrato essere di livello piuttosto alto, la buona qualità delle voci di Wikipedia? Allora, come funziona? In realtà è abbastanza semplice. Chiunque si colleghi al sito ha la possibilità di modificare tutte le voci presenti o di scriverne di nuove, possibilità che gli è offerta in maniera molto intuitiva dalla struttura del sito, per cui ogni pagina ha in alto una linguetta che dice modifica, o se navigando nel sito capita di cliccare sul link rosso si apre una pagina vuota che invita a scrivere quella voce che non esiste. Per quanto riguarda la qualità, in realtà non c'è nessuno che la garantisca, tant'è che abbiamo un general disclaimer ai piedi di ogni pagina che dice che nessuno di noi può farsi garante del contenuto della pagina. Quello che cerchiamo di fare è, da una parte, di avvisare i navigatori della bontà dell'articolo che stanno per leggere, per cui se sono state riscontrate anomalie rispetto ai nostri standard troveranno in testa alla voce un banner. Dall'altra parte c'è un nucleo di persone che sono gli utenti più attivi, che si occupano di controllare tutto quel che viene inserito. Però è un controllo assolutamente distribuito, per cui nessuno fa mai un controllo totale sulla voce, cioè che si occupa di controllare la congruità del contenuto, altri che si occupano della formattazione, dell'impaginazione, eccetera, eccetera. Sì, comunque diciamo che prima che venga pubblicata una voce esiste comunque una sorta di passaggio intermedio, di un filtro, controllo, chiamiamolo così. No, è il contrario. Ogni operazione su Wikipedia avviene a posteriori, cioè dopo la pubblicazione viene effettuato tutto il resto. Però c'è uno strumento, non dico molto potente, ma molto utile, che è la pagina delle ultime modifiche, dove è possibile vedere in tempo reale chi sta lavorando su cosa per qualunque parte dell'enciclopedia, per cui i testi, le immagini, le pagine di servizio, le eventuali discussioni sul contenuto delle voci, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che è il classico esempio, forse l'esempio più interessante e più convincente anche da un certo punto di vista di quanto potente è la rete e il controllo che c'è in rete, perché tutti gli utenti controllano le pagine e se viene scritta una stupidaggine in poco tempo viene corretta. Assolutamente, di solito il tempo medio varia da pochi secondi a qualche minuto. Parliamo anche di denaro. Voi in Italia siete tutti volontari, quindi diciamo che il funzionamento è proprio garantito da questa struttura di volontari. L'appello che è stato fatto da Wales, dal fondatore di Wikimedia, è un appello che puntava a raccogliere, se non sbaglio, 6 milioni di dollari. È questo il costo annuale della struttura? Per sostenere proprio Wikipedia e i progetti correlati, sì. In realtà poi nelle varie organizzazioni nel mondo, i cosiddetti capitoli locali come Wikimedia Italia, non fanno parte di questa raccolta fondi, nel senso che anche loro raccolgono e poi parte viene donata a Wikimedia Foundation e parte serve a tenere in piedi l'associazione stessa. Sono quasi tutte associazioni tenute in piedi da volontari, ad esempio quella italiana è formata solo unicamente da volontari, ma c'è qualche caso come in Germania dove ci sono persone che vivono di questo. Quante sono le persone volontarie, insomma le persone attive in Italia che contribuiscono alla crescita di Wikipedia? Se sono in Italia non lo sappiamo, che siano di lingua italiana un po' di più, sono grosso modo 8.000 nell'ultimo mese quelli che hanno fatto almeno un edit, per cui che hanno dato un cenno di vita. E le persone che invece fanno parte attivamente della Wikimedia Italia? 200. Senti, ci sono altri progetti che fanno parte del mondo del network di Wikimedia. Wikipedia è l'enciclopedia ed è il progetto più famoso, quello di cui si parla spesso. Quali altri progetti esistono? Dunque, sono tantissimi, ormai sono quasi una decina. Esiste Wikiquote, che è una raccolta di aforismi e citazioni, esiste Wikibooks, che è un progetto per scrivere manuali e libri di testo in maniera collaborativa, esiste Wikisource, che è una biblioteca online, esiste Wikinotizie, che è un raccoglitore di notizie e di in alcuni casi anche di reportage, Wikizionario, che è un dizionario in lingue e multilingue, poi c'è Wikiversità, che è un progetto che raccoglie materiali che hanno un respiro universitario, Commons, che è un repository centrale di immagini e di file multimediali, per cui anche audio e film, ed esiste Wikispecie, che è una sorta di directory che elenca tutte le specie viventi. Insomma, l'elenco è piuttosto nutrito, quindi insomma ci si può sbizzarrire all'interno del network di Wikimedia. Bene, io Frida ti ringrazio, grazie non solo a te ma insomma a tutte le persone che fanno parte del mondo Wikipedia per il lavoro che fate, anche per il tempo che spendete e dedicate alla rete, donate alla rete. Grazie, buon lavoro e buon anno. Grazie altrettanto. Quindi una buona idea per il 2009 potrebbe essere quella di fare una donazione a Wikipedia con carta di credito su internet. La cosa è molto semplice, bastano anche pochi dollari o comunque pochi euro. Ricordiamo che Wikipedia è disponibile in quasi 250 lingue e conta in totale più di 10 milioni di voci scritte ogni mese da circa 1 milione di utenti. Consiglio, tra le altre cose, se siete curiosi, la voce 10 cose che non sapevate su Wikipedia. Trovate il tutto su www.wikipedia.org. Se ancora non avete fatto la prova, vi consigliamo di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast di 2024. Andate su internet, trovate tutte le informazioni su www.radio24.it nelle pagine di 2024, oppure inviateci una email, invieremo tutte le informazioni da seguire passo passo per abbonarvi e quindi scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Sono molti gli ascoltatori che utilizzano questo sistema per appunto riascoltare quando preferiscono, ma soprattutto anche sullo strumento che preferiscono, il computer, il lettore di file MP3, ci sono altri che addirittura fanno le compilation per riascoltarle in automobile. Insomma, un modo molto flessibile per poter riascoltare contenuti audio e in modo particolare 2024. Adesso, come dicevo, parliamo di privacy, di un tema estremamente complesso e anche molto delicato, di cui si parla spesso in vari ambiti. Naturalmente, quando si parla di tecnologie, quando si parla di internet, questo è un tema che ricorre spesso. Negli ultimi giorni abbiamo anche a Radio 24 parlato di una notizia che è stata riportata in Gran Bretagna. Esiste una proposta, siamo a livello di proposta per creare un grandissimo database centrale per registrare le comunicazioni digitali. Quindi, quando pensiamo a comunicazioni digitali, possiamo pensare alla email, alla navigazione su internet, ma anche ad una telefonata che facciamo con il nostro telefonino. Vogliamo parlare di questo tema per capire anche come stanno le cose in Italia e se ha un senso parlare dell'Italia, della Gran Bretagna, della Francia, delle differenze che ci sono nei vari paesi, quando in realtà internet è un sistema che di confini ne ha ben pochi, anche se in alcuni casi se ne vogliono creare di artificiali. Saluto, vogliamo parlare con l'avvocato Guido Scorza, che è esperto della rete. Benvenuto a 2024. Buongiorno, grazie dell'invito. L'avvocato Guido Scorza è oltre che esperto della rete, anche appassionato, e in questi casi la passione è molto importante. Dunque, una prima domanda per farci capire in quale ambito ci stiamo muovendo è: qual è il tema principale? Noi stiamo parlando di privacy, di una cosa che gli esperti chiamano data retention, quindi l'archiviazione di una mole ingente di dati di navigazione, delle nostre telefonate, delle nostre navigazioni e di tante altre transazioni telematiche su internet. Di che cosa stiamo parlando, avvocato? Direi che con una formula di sintesi possiamo dire che stiamo parlando essenzialmente del traffico di comunicazioni elettroniche, quali che esse siano, e quindi si va dalla telefonata attraverso strumenti di VoIP, all'email, al percorso di navigazione, cioè quali siti ho visitato in una certa giornata, a chi ho indirizzato un'email o da chi l'ho ricevuta, a chi ho fatto una telefonata via VoIP. Insomma, stiamo parlando di qualsiasi tipo di comunicazione tra un soggetto ed un altro soggetto, ovunque essi siano situati, purché lo strumento utilizzato sia la rete internet. Ecco. La notizia che arriva dalla Gran Bretagna, potremmo dire, non è una novità in assoluto, perché già oggi esiste un sistema per controllare o comunque tener traccia a norma di legge delle comunicazioni, quindi da questo punto di vista non si tratta di una novità. No, diciamo che probabilmente per i non addetti ai lavori può risultare tale, nel senso che è ancora diffuso un convincimento per cui ciò che accade in rete accade all'interno di scatole nere più o meno oscure, quindi nessuno sta a guardare quello che accade in ambito telematico. Nella realtà non è così, nella realtà ormai da anni tutti i grossi gestori di servizi di telecomunicazione, quindi si va evidentemente dalla telefonia mobile a quella fissa, ai provider di servizi di connettività internet trattengono legittimamente dei dati personali relativi alle comunicazioni, esistono, e se ne discute moltissimo, limiti più o meno stringenti a seconda dei diversi paesi europei e mondiali relativi ai termini entro i quali questi dati devono essere distrutti e a quali dati soprattutto questi soggetti possono conservare. In maniera molto sintetica possiamo dire che cosa succede in Italia. Quando io navigo su internet, quando io faccio una telefonata col mio telefonino digitale, che tipo di dati vengono trattenuti? Dunque, diciamo che certamente i gestori dei servizi di telefonia, così come gli internet service provider, hanno il diritto e tanto di conservare tutti quei dati che gli sono necessari per la fatturazione, sino evidentemente all'avvenuta fatturazione e ottenimento del relativo pagamento da parte del cliente. In aggiunta a questi dati, tutti i gestori di telefonia mobile, piuttosto che di servizi di connettività internet, devono conservare per un periodo più o meno lungo, se ne discute in realtà ancora, questo periodo era fissato per il traffico telematico in 24 mesi, ma siamo esattamente in un momento di passaggio tra la vecchia disciplina e la nuova disciplina che ne imporrebbe in realtà l'immediata distruzione, anche tutta una serie di dati relativi al punto di partenza e al punto di destinazione della comunicazione. Quindi il numero di telefono del mittente o quello del destinatario, così come l'indirizzo email del mittente o del destinatario, e tutta una serie di altri dati personali che valgono appunto a consentire la tracciabilità della comunicazione. Importante dire, sia nella vicenda inglese che in quella italiana, che non c'è alcuna norma che legittima chi che sia a conservare il contenuto, ad acquisire e conservare il contenuto della comunicazione. Quindi ci sono dei soggetti che in questo momento hanno i dati relativi al mittente e al destinatario di una comunicazione, chi ho chiamato e a che ora, ma non fanno certamente cosa ci siamo detti. Il cosa ci siamo detti è una pagina diversa, della quale pure si discute in questi giorni, e riguarda però esclusivamente l'aspetto legato alle intercettazioni. Quindi è un ordine dell'autorità giudiziaria che dice: ho bisogno di sapere cosa la persona A stia dicendo alla persona B. In condizioni normali questo non avviene e non avverrà neppure in Inghilterra, stando a quanto si legge sulla stampa inglese. Molto bene, quindi diciamo che quello che ci stiamo dicendo e che gli ascoltatori stanno ascoltando in questo momento tra Enrico Pagliarini e Guido Scorza, o lo si ascolta a Radio 24 oppure non ci sono altri modi legali perché questa comunicazione venga ritrovata da qualche parte. Ha un senso parlare di legislazioni nazionali? Sappiamo che quando parliamo di almeno Europa, poi tutti gli stati in realtà cercano di dire la propria o comunque di regolare alcune materie in maniera stringente a livello nazionale. In questo caso, visto che quando parliamo di internet parliamo di un sistema che poi ha confini molto labili o comunque difficilmente controllabili, in questo caso ha ancora un senso parlare di quello che si fa in Gran Bretagna, in Francia, in Italia? No, direi decisamente no, questo è un dato che mi fa sempre un po' sorridere, nel senso che sembra sottendere una scarsa conoscenza del fenomeno internet. Tanto per capirci, è ovvio che se il progetto di legge britannico dovesse diventare legge, se effettivamente in Gran Bretagna dovesse essere costituita questa enorme base di dati in cui sono destinati a terminare i dati relativi alle comunicazioni elettroniche e telematiche, anche i dati dei cittadini italiani in transito verso la Gran Bretagna o in provenienza dalla Gran Bretagna finirebbero con il confluire in questa base di dati. E allora la domanda che bisogna porsi è: quanto senso ha continuare a discutere in Italia di quali obblighi debbano avere o non avere i nostri provider, se dietro l'angolo si assiste sostanzialmente impotenti alla costituzione di un super database che raccoglierà i dati di chiunque parli via internet con la Gran Bretagna. È d'altra parte un fenomeno al quale già abbiamo assistito, forse alcuni dei nostri ascoltatori ricorderanno quanto accaduto l'indomani dell'11 settembre in relazione ai dati dei passeggeri in transito sul territorio degli Stati Uniti d'America. Anche lì si è assistito ad una autorizzazione di fatto da parte dell'Unione Europea al governo americano per l'acquisizione di una mole enorme di dati personali di cittadini evidentemente provenienti dal vecchio continente verso il nuovo, con la giustificazione che ciò era dettato da esigenze di sicurezza. Nessuno dubita di queste esigenze, ma è ovvio che nel momento in cui io accetto l'idea che dall'altra parte dell'oceano qualcuno gestisca una mole tanto importante dei miei dati personali, sarebbe ragionevole attendersi una diminuzione del livello di attenzione da quest'altra parte dell'oceano, perché non ha davvero senso due pesi e due misure in un contesto che comunque si avvia a divenire globale. Uno dei motivi di, se non proprio polemica, comunque di dibattito in Gran Bretagna relativamente alla notizia di cui dicevamo all'inizio della nostra chiacchierata è che questo database dovrebbe o potrebbe essere gestito da una entità privata. Uno dei fenomeni al quale stiamo assistendo con la diffusione di internet è che il ruolo dei privati è sempre più importante, cosa che prima non succedeva. Oggi assistiamo anche ad un'attenzione sempre maggiore delle forze dell'ordine, che però sono costrette a rivolgersi in alcuni casi ai privati per indagini, per rintracciare le comunicazioni. È un fenomeno al quale ci dobbiamo abituare e quindi poi dobbiamo abituarci anche agli eventuali rischi, o esistono modalità o anche possibilità per fare rientrare tutta questa materia sotto le mani dello Stato, comunque delle forze dell'ordine? Il problema ritengo che sia, così come d'altra parte è già emerso stando alla realtà italiana, un problema prettamente economico e di adeguatezza tecnologica delle risorse pubbliche. Sin qui queste risorse, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnologico, almeno stando alla realtà Italia, sono purtroppo mancate, e si è trovata come unica strada possibile quella di rivolgersi, tanto per le intercettazioni quanto per il data retention nella misura evidentemente prevista dalla legge, al settore privato. Si tratta in realtà di una rinuncia importante dal punto di vista dello Stato all'esercizio di un'attività che dovrebbe essergli propria, perché quello che accade, o che si corre il rischio accada, ma la storia insegna che purtroppo vi è poca differenza tra ciò che potrebbe accadere e poi ciò che effettivamente accade in questo campo, è che si fa di soggetti privati dei detentori di una mole di dati tale da consentirgli di giocare un ruolo assolutamente fondamentale in alcune vicende di politica nazionale ed internazionale, dove per politica intendo questioni che interessano la cosa pubblica tout court. C'è una commistione naturale ed irrinunciabile tra l'interesse privato e quello pubblico, e quando parliamo dei dati personali che concernono l'attività telematica di ciascuno di noi, e quindi negli anni a venire sostanzialmente la più parte della nostra attività, perché che ci piaccia o no, siamo destinati ad interazionarci sempre di più attraverso lo strumento internet, devo dire che questo francamente mi preoccupa, e mi preoccupa ancora di più se, come si paventa nella Gran Bretagna, si ipotizza addirittura di realizzare un monopolio di Stato sulla data retention dei dati personali, perché quali siano le possibili conseguenze della realizzazione di questi monopoli è tristemente noto nei settori più diversi. Quindi potremmo ritrovarci tra pochi anni, neppure tanti, perché le cose tecnologiche vanno veloci, con un soggetto che è posto nella condizione di fatto di ricattare, tra virgolette, l'autorità statale, dettando lui le condizioni per l'accesso a quei dati. Quindi si tratta di un fenomeno da tenere, secondo me, sotto controllo. E queste dovrebbero essere preoccupazioni di tutti noi, e anche questo è un motivo per cui di questo parleremo in altre occasioni nel 2024. Grazie all'avvocato Guido Scorza per essere stato con noi, buon lavoro per i prossimi giorni, ma visto che siamo all'inizio del 2009, anche gli auguri di un buon anno. Altrettanto, grazie a voi. Seguiteci, andiamo in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30. oppure ci trovate online quando preferite con il servizio podcast. Le cose sono molto semplici, potete scaricare fino alle 5 puntate, le ultime 5 puntate del nostro programma, e comunque aggiornare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione e crearvi anche un archivio online. Ricordate, tra i buoni propositi del 2009, di fare sempre il backup dei vostri dati, quindi salvare tutti i vostri dati. Di questa cosa ci si accorge, dell'importanza del backup ci si accorge poi quando si perdono i dati. Un'altra cosa importante è aggiornare sempre i software che si utilizzano e usare un antivirus o comunque una suite di sicurezza, come vengono definite oggi. Parleremo presto anche di security online, ci sono varie idee allo studio e quindi ne parleremo presto a 2024. Adesso un'anticipazione della quale troverete maggiori dettagli sul Sole 24 Ore del lunedì. Francesca Milano, benvenuta a 2024. Grazie. Tu hai provato, hai cercato di verificare se un po' l'andamento della sterlina, che sta favorendo i consumatori che invece hanno in tasca l'euro, un po' i venti di crisi, anche i saldi londinesi, siano o meno favorevoli a chi acquista online. Che cosa hai verificato e soprattutto che tipo di prova hai fatto? Ci siamo accorti che fondamentalmente acquistare online conviene, ma conviene ancora di più se il rivenditore si trova in Gran Bretagna. Quindi in generale il commercio elettronico, questo è un dato insomma che ogni tanto viene anche confermato da dei numeri, acquistare online spesso conviene, non sempre in assoluto. Nel caso specifico in particolare conviene perché in Gran Bretagna è successo qualche cosa. Sì, esatto, c'è un doppio fattore di convenienza legato da una parte alla sterlina che ha pareggiato praticamente l'euro e da un'altra parte alla crisi che ha portato in qualche modo a una serie di sconti che i rivenditori stanno mettendo in atto. Questo comporta, in base alla nostra verifica, un risparmio medio del 30%. Ah, quindi un sacco di soldi. Sì, in particolare sugli elettrodomestici e sui prodotti di alta tecnologia il risparmio può arrivare addirittura al 50%. Sì, giusto per fare alcuni esempi, voi vi siete focalizzati su 12 prodotti per parlare di tecnologia su una videocamera che in Europa, comunque in Italia, sui siti di commercio elettronico costa 373 euro. Voi avete trovato un'offerta a 210 euro in Gran Bretagna, il risparmio del 44%, un risparmio del 24% lo avete ottenuto tentando, cioè facendo finta insomma di comprare una fotocamera digitale che è in Italia venduta a 790 euro, in Gran Bretagna l'avete trovata a 597 euro. Naturalmente questi sono esempi, si risparmia un po' meno sull'iPhone, solo l'11%, e sulla Nintendo Wii il 10%, invece si risparmia un sacco di soldi per un frigorifero che avete trovato in Italia a 1596 euro, in Gran Bretagna a 881, quindi risparmiando il 45%, e addirittura su una lavatrice il 54%, da un prezzo di 1870 euro si scende a 863 euro. Dicevo, questi sono naturalmente esempi che però ci raccontano insomma di una certa convenienza su almeno alcuni prodotti. Senti, ci sono problemi di garanzia? No, perché la garanzia è stata estesa a livello europeo, per cui non c'è nessun problema. Quindi potrebbero esserci problemi magari se uno acquista un prodotto che ha qualche scritta, che ne so, uno smartphone, forse non ha, adesso così ipotizzo, i software in italiano forse. Certo, quello sì, quello è da tenere in considerazione, così come è da tenere in considerazione la questione dell'adattatore per la spina elettrica nel caso in cui si tratti di un elettrodomestico. Noi abbiamo consigliato ai lettori appunto di acquistare anche l'adattatore sempre online, perché rende possibile l'utilizzo in Italia. Senti, hai detto che ci possono essere problemi per quanto riguarda le spedizioni, che cosa intendi dire? Sì, non tutti i rivenditori inglesi spediscono in Italia, spediscono all'estero, sì. Molti rimangono nei confini nazionali, quindi laddove il rivenditore non preveda una spedizione in Italia, conviene aggirare l'ostacolo cercando online un corriere espresso che si possa occupare della consegna della merce. Verificando appunto sulla rete abbiamo trovato una serie di siti che offrono il confronto tra le offerte dei diversi spedizionieri. Quindi esatto. Tu hai, ad esempio, hai individuato e hai scritto parcelforce.com e anche parcel2go.com, che sono due siti inglesi che offrono questo servizio. Fondamentalmente tu vai sul sito, indichi il peso dell'oggetto che devi spedire dal punto A al punto B, esatto, che è l'Italia, molto probabilmente, e loro ti suggeriscono anche le dimensioni, vanno specificate, loro ti tirano fuori un paio di prezzi attraverso cui si può scegliere e anche i tempi di consegna, ovviamente, quindi ti indicano i tempi di consegna. Quindi se io trovo un'offerta su un sito online molto conveniente, se questo sito non consegna in Italia, posso rivolgermi a Parcel2Go e fanno tutto loro. Assolutamente sì. Bene, Francesca, io ti ringrazio per essere stata con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie. E se non ci fosse la rete, tutto ciò non sarebbe certo possibile. Adesso cambiamo argomento, decisamente argomento, parliamo di tecnologia, quella che serve per fare funzionare i nostri computer e soprattutto che ci permette di vedere cose in maniera nuova sui nostri computer. Parliamo di chip grafici, di grafica. Saluto Luciano Alibrandi che lavora ad Nvidia. Nvidia è uno dei grandi produttori di tecnologia per la grafica. Benvenuto a 2024. Grazie. Voi siete un produttore di chip grafici indipendente, oramai nel mondo sono rimasti pochi quelli che producono chip grafici. Questo che cosa significa? Che cosa significa produrre un chip grafico e poi a che cosa serve? Il chip grafico alla base serve per avere un'immagine che viene proiettata su quello che abbiamo di fronte a noi, ovvero lo schermo, il monitor naturalmente. Queste immagini sono di tipo bidimensionale o tridimensionale, quindi lo schermo di Windows ad esempio è bidimensionale, quindi si parla di 2D, lo schermo 3D ad esempio in un gioco, quando si attiva la modalità 3D. Fino a poco tempo fa le applicazioni 3D erano molto ludiche, oggi il processore grafico nominato GPU serve ad altre cose, non solamente per fare i giochi, ma viene utilizzato in maniera di compute, ovvero di calcolo parallelo, per fare delle attività di calcoli molto più importanti e che sono per degli sviluppi molto più scientifici, ad esempio. Ecco, di questo parleremo tra poco. Volevo però farti una domanda prima per capire perché la grafica sta diventando sempre più importante, soprattutto come si sta trasformando. Noi quando compriamo un computer, il nostro processore, quello tradizionale, la CPU, tu prima parlavi della GPU, che è l'unità grafica, dicevo, il processore tradizionale fa già tante cose e ci fa anche un po' di grafica. A che cosa serve quel chip in più che si occupa prevalentemente di grafica? Diciamo che il processore centrale, come dicevi tu, serve a dare dell'intelligenza al computer, ma diciamo tutto quello che è la parte display, ovvero di output verso lo schermo, è fatto da quest'altro processore che è la GPU. Come ti dicevo prima, ci sono dei limiti che sono imposti dal CPU e dal chipset del computer, perché c'è un certo limite fisico di quanti calcoli possono essere fatti, sì, dalla GPU interna al chipset. Quindi avere una GPU più potente serve a fare delle cose sullo schermo che sono molto più impegnative, quindi da un gioco che risulta molto più bello dall'applicazione di certi effetti speciali sullo schermo, all'alta definizione. Ad esempio, una GPU di oggi moderna è in grado di fare il decoding in tempo reale di un film in Blu-ray, ad esempio. Dicevi che oramai questi chip fanno anche dell'altro, non si occupano più solo di grafica, cioè sono diventati talmente potenti che vengono utilizzati anche per fare i calcoli che normalmente facevano i processori tradizionali. Cioè, potremmo pensare addirittura ad un computer che va solo con un chip che normalmente viene denominato GPU, quindi un processore grafico che in realtà fa tutto? Sì, forse in un futuro prossimo si arriverà a avere dei computer con una maggiore potenza di calcolo di GPU. Secondo noi comunque non lo chiamiamo il computing eterogeneo, quindi c'è bisogno all'interno di un computer di un CPU e di una o molteplici GPU all'interno. Come dicevi tu, è importante sottolineare che prima le GPU erano utilizzate per alcuni scopi molto ludici, oggi per il loro calcolo parallelo gli scienziati, gli sviluppatori hanno scoperto che c'è questa potenza innata all'interno delle GPU che può essere utilizzata per altri calcoli. Poco tempo fa abbiamo annunciato questo personal supercomputer, ovvero gli sviluppatori e le università come l'Università di Cambridge hanno utilizzato la potenza delle GPU, che prima era sviluppata su una piattaforma CPU e si sono accorti che hanno dei risultati nelle loro ricerche che sono aumentati del 50 volte, quindi riescono a risolvere dei problemi molto complessi di ricerca in un tempo minore. Senti, se volessimo uscire dal campo scientifico, che a volte può essere complicato, anzi spesso è complicato da comprendere, e volessimo tornare al nostro computer di casa, oggi quali sono le cose più interessanti che una unità grafica, cioè che tutta la potenza grafica di un computer ci può offrire? Quindi quali sono le esperienze, poi per arrivare all'esperienza quotidiana? Partendo dalla base del sistema operativo, quindi già come sai benissimo Windows Vista utilizza la 3D, okay? Quindi la GPU ha ci un sono effetto. Degli effetti tridimensionali. Esattamente, sì. Esattamente. Passiamo poi alla parte, la GPU è in grado, come dicevo prima, di sfruttare i Blu-ray, ovvero riesce a farci vedere dei film in maniera eccezionale, quindi dove il carico di lavoro è portato sulla GPU, quindi il processore centrale è in grado di essere libero di fare altre cose per il multitasking. L'altra cosa, abbiamo parlato naturalmente dei giochi, e proprio ultimamente abbiamo fatto un'evoluzione delle nostre GPU in modo tale da implementare una nuova funzionalità che si chiama la fisica, ovvero fino a poco tempo fa interagire in un gioco e magari sparare contro un muro non portava alcun effetto, adesso con la fisica si può vedere il muro che esplode o ci sono altri effetti dove se si fa cadere qualche cosa si vede veramente l'oggetto come nella vita reale. Non contenti di ciò, stiamo lanciando anche un'altra cosa che si chiama la 3D stereoscopica, okay, quindi vogliamo non solamente dare questa esperienza su uno schermo bidimensionale, ma vogliamo cercare di far uscire queste immagini dallo schermo per poter far usufruire a tutti i consumer, a tutti i clienti, di questa esperienza ancora nuova che è ludica. Questa è l'ultima parte di 2024, nella prima puntata del 2009. Ci trovate anche in podcast sul nostro sito internet www.radio24.it. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Tra poco parleremo di una speciale classifica che mette in fila gli annunci che poi non sono seguiti, non sono stati seguiti dai prodotti veri e propri o dai servizi veri e propri, una divertente classifica che è stata realizzata qualche giorno fa alla fine del 2008. Adesso stiamo parlando di grafica, in modo particolare della rivoluzione prossima della grafica tridimensionale. Vedremo sempre più spesso prodotti e soluzioni per vedere cose in tre dimensioni, film e videogiochi in modo particolare. Sicuramente i videogiocatori saranno i primi ad apprezzare queste tecnologie, anche perché saranno i primi disponibili ad acquistare le novità, a spendere soldi per queste tecnologie. In modo particolare stiamo parlando di un prodotto che verrà annunciato tra qualche giorno al Consumer Electronics Show di Las Vegas da Nvidia, GeForce 3D Vision, quindi la visione tridimensionale, che prevede sostanzialmente un paio di cose, un paio di occhialini e anche soprattutto un monitor LCD a 120 Hz, una rarità ancora sul mercato. C'è una offerta molto molto limitata e forse quasi nulla in Italia, quindi nelle prossime settimane vedremo arrivare anche questi prodotti. È con noi Luciano Alibrandi di Nvidia. Luciano, quindi di che cosa stiamo parlando, soprattutto poi in concreto come sarà questo prodotto? Sì, si conclude un package dove ci sono degli occhialini stereoscopici con un receiver dove si attacca naturalmente via la presa USB al computer, ha una scheda grafica della nostra marca e naturalmente poi serve uno schermo che sia pronto per questa grafica tridimensionale. Quindi noi lavoriamo con alcune società leader nel mercato come la ViewSonic, come la Samsung, come InFocus, che sviluppano dei monitor specifici per queste applicazioni 3D. Quindi noi siamo molto, molto contenti di questa innovazione tecnica, perché crediamo che comunque l'esperienza ludica di gioco e sicuramente anche dei film in 3D, come sapete benissimo ci sono già dei film che sono stati lanciati negli Stati Uniti che utilizzano questa tecnica di 3D dove si può quasi interagire con l'immagine perché sembra quasi uscire dallo schermo. Quindi una... A proposito di prezzi, quanto costa questa scatola, o comunque per avere un'idea, perché non so se è già lanciata sul mercato? No, il prodotto non è ancora lanciato sul mercato, stiamo ancora in fase di definizione di prezzo, crediamo per il kit degli occhialini più receiver dovremmo essere intorno ai 200 euro, ma naturalmente c'è da pensare anche al monitor, certo, che sia parte, disponibile, sì. 3D. Sì, esistono già questi monitor sul mercato? Sì, ce ne sono alcuni sul mercato, sicuramente ci saranno ancora di più nel mese di gennaio, che è il mese in cui lanceremo il prodotto in questione, e quindi... Senti, per concludere, a proposito di prezzi, quanto costa una scheda grafica per povere persone, una scheda grafica, che non è un esperto di computer, però magari con una buona esperienza voglio spendere pochi soldi? Già una scheda grafica dell'anno scorso funziona bene, quindi non c'è quindi bisogno... Quindi vendi una scheda vecchia? Puoi utilizzare anche la scheda che hai oggi, ma sicuramente noi raccomandiamo una scheda un po' più moderna, o eventualmente anche la possibilità di poter mettere due schede all'interno del computer. Addirittura, quanto spendo per entry level? Sì, si può partire a livello di 150 euro fino a 500 euro per avere un'esperienza ancora superiore. Naturalmente si ha un trade-off, ovvero... Sì, diciamo che se divento bravo con i videogiochi potrei spendere 500 euro. Si può sempre lanciare il gioco a una certa risoluzione con la 3D, oppure si può aver bisogno di una risoluzione ancora molto più elevata, con filtri più elevati, avere il massimo della qualità grafica con la 3D che esce fuori dallo schermo. Bene, grazie per essere stato con noi. Grazie. Buon ritorno a Parigi. Grazie. Adesso noi cambiamo argomento. Come sapete, questa è la prima puntata dell'anno per 2024. In molti si sbizzarriscono a parlare del futuro, ma come dice un amico e un collega, è facile parlare del futuro, tanto nessuno ti smentisce. Più difficile parlare e spiegare il presente, e ancora più difficile è ricordarsi del passato. Lo ha fatto Wired, una delle riviste di riferimento per chi è appassionato di tecnologia, che per l'11° anno ha fatto la classifica delle mancate promesse. Gli annunci a cui poi non sono seguiti i prodotti oppure i servizi, quello che con un termine molto efficace, molto divertente negli Stati Uniti, si chiama vaporware, facendo la rima con hardware, software. Il vaporware è appunto un annuncio che poi si dilegua come il vapore. Ha letto per noi questa divertente classifica Giorgia Scaturro. Benvenuta a 2024, Giorgia. Ciao Enrico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dunque, questa è una classifica in 10 posizioni, suggerita dagli utenti di Wired, dai lettori di Wired. Iniziamo subito dalla posizione numero 10, che fa riferimento ad un mondo virtuale. Sì, diciamo subito che queste 10 posizioni riguardano soprattutto il mondo dei videogiochi e il mondo della telefonia cellulare, e infatti al 10° posto troviamo proprio il mondo virtuale di Home, preannunciato dalla Sony PlayStation, che in pratica si tratta un po' di una Second Life, una brutta copia diciamo di Second Life, che è stata promessa e ancora è arrivata, ma mancavano delle parti. Ad esempio non c'erano le chat video interattive perché gli utenti in tutto il mondo potessero collegarsi. Insomma, è stata una grande delusione, così come pure hanno deluso le altre promesse nel campo dei videogiochi. Una all'ottavo posto era Hero's Journey, la meraviglia della grafica di Simutronic, e al quarto posto StarCraft 2, che è il seguito del videogioco strategico di fantascienza di Blizzard Entertainment. Anche qui tante attese pompate, si promettevano astronavi, attacchi ionici potentissimi. L'uscita era stata rimandata al 2009, ma ancora non è successo, e quando uscirà sappiamo già che dovremo acquistarlo singolarmente a pezzi. Per passare un po' alle altre posizioni possiamo menzionare Maika, un'altra TV on demand. In pratica sembra un cubetto bianco ad alta definizione che doveva consentire il download di musica, video e filmati sfruttando il protocollo di BitTorrent, senza però bisogno di decodificare e ricodificare. Era un sogno per i pirati informatici, che però sta facendo molta fatica a realizzarsi. Al momento ci sono soltanto preordinazioni. Naturalmente nella classifica non ci sono solo videogiochi o strumenti legati al mondo della rete, al mondo dei computer. Quando si parla di tecnologia si parla anche di ambiente, e in un caso, in una posizione, la numero 7, di un'automobile. Qual era la promessa e come si è trasformata, come dice Wired, in vaporware, la posizione numero 7, Giorgia? Il vapore di Wiperwell al settimo posto è un SUV addirittura elettrico, e si tratta di Zap X, che è una vettura elettrica ma con la potenza di 644 cavalli, che secondo le promesse doveva percorrere distanze fino a 560 km ad una velocità di 248 km all'ora, in pratica come una Porsche ma molto più economica, si parlava di mezzo centesimo per chilometro. Anche chi poi ha $60,000 da investire non sarà comunque in grado di comprarlo fino al 2010, ma secondo i redattori della classifica di Wired la data potrebbe scalare molto oltre. Alla posizione numero 6 c'è un proiettore video che viene definito Pico, tanto è piccolo, è stato promesso circa un anno fa ma ancora non si è visto nulla. No, in realtà l'idea era carina perché si tratta appunto di Microvision Pico, questo mini proiettore che può essere applicato addirittura sulle macchine fotografiche e sui cellulari, dandoci la possibilità di proiettare i nostri download e immagini anche sulle spalle della persona davanti a noi con una maglietta bianca. Questo sì, come dicevi, doveva uscire esattamente un anno fa, però questo sistema Pico Laser ancora non si è visto. Nel frattempo però Microvision è stata battuta da altri come Toshiba, che ha già lanciato il suo Pico proiettore. Ora ci avviciniamo al Consumer Electronics Show di Las Vegas, vediamo se verrà ripresentato. Ci avviciniamo alle posizioni di testa di questa classifica sul Vaporware, sulle promesse mancate del mondo della tecnologia. Tu dicevi che alcune di queste posizioni riguardano la telefonia mobile. Alla posizione numero 5 c'è un annuncio che è stato fatto anche in Italia. Alcune delle notizie che sono apparse in questa classifica sono poco conosciute in Italia perché sono annunci fatti forse solo negli Stati Uniti o comunque in altri paesi rispetto al nostro. Invece Garmin, anche in Italia, la notizia era arrivata, aveva annunciato l'arrivo di un navigatore telefonino. In realtà cosa è successo? Cioè cosa non è successo? In realtà questo dovrebbe arrivare alla metà di quest'anno, quindi dovremmo esserci quasi, però ancora non è successo ed è per questo che è al quinto posto. Quando ci sarà, sappiamo che questo nuovo smartphone avrà la possibilità di mappe di Google, prevederà il traffico in tempo reale e avrà appunto una macchina fotografica con questo nuovo servizio Google Panoramio, che ci permetterà di condividere le nostre fotografie ed avere indicazioni vocali direttamente dalla nostra macchina fotografica. Alla posizione numero 4 c'è un videogioco che ancora non si è visto sul mercato, StarCraft numero 2, e al terzo posto, a proposito di telefonini, non un prodotto singolo ma una serie di prodotti. Per il momento si è vista solo la prima release di una serie, facciamo riferimento a telefoni con sistema operativo Android e qui citiamo nuovamente Google, Giorgia. Sì, esattamente, l'Android Phone è appunto il cellulare che usa il sistema operativo di Google e che ancora è però disponibile solo nel modello G1 di T-Mobile, che è già uscito negli Stati Uniti e dovrebbe arrivare in Italia quest'anno. Secondo la giuria di Wired però questo sarà un prodotto troppo simile all'iPhone, con in più anche una tastiera scomparsa non molto pratica. Android, lo ricordiamo però, è sviluppato dall'Open Handset Alliance e di questo fanno parte ben 9 compagnie che al momento stanno cercando anche loro di sviluppare questi cellulari Android. Questo mese però, uscirà il primo Google iPhone di Kogan, questa compagnia australiana che lancerà Agora, e quindi dicono quelli di Wired, potremo leggere tutte le recensioni su questo nuovo Google Phone sul nostro iPhone, perché al momento ancora l'Android Phone non è uscito. Alla posizione numero 2 c'è un prodotto della Microsoft. Microsoft ha avuto qualche problema nel corso del 2008, un po' più di qualche, con Vista, infatti è stato già annunciato Windows 7 per quest'anno, forse il prossimo anno, ma c'è chi dice, insomma, che sostiene che il sistema operativo nuovo di Microsoft uscirà nel corso di quest'anno per risolvere tutta una serie di problemi di Vista, ma non ci sono solo problemi per il sistema operativo ma anche per il navigatore Internet Explorer. Oggi stiamo usando il numero 7, annunciato il numero 8. Perché i lettori di Wired hanno scelto questo prodotto, questo software per la posizione numero 2, quindi quasi la testa della classifica? Ma perché perché che ci piaccia o no, sostengono appunto i redattori della classifica, Microsoft Internet Explorer fa ancora la parte del leone nel mercato dei browser, e a parte tutti i problemi di sicurezza di cui menzionavi prima, questo Internet Explorer 8 era atteso addirittura dagli utenti di Firefox, perché dovrebbe essere un prodotto molto significativo per quel che riguarda il mercato dei browser. Ebbene, però dovremmo attendere ancora tutti quanti qualche mese prima che venga fuori, anche se bisogna dirlo, è già disponibile la versione in beta. La classifica Vaporware 2008 vede alla prima posizione chi? Sì, teniamoci forte, perché si tratta di nuovo di lui, Duke Nukem Forever, che è il vincitore della classifica dello scorso anno ed è atteso da ben 12 anni dai fan di questo protagonista tutto muscoli e pallottole di una serie particolarmente fortunata per PC e PlayStation. Quindi il Duca, come viene chiamato, si è riconfermato un'altra volta re della classifica dei Vaporware anche nel 2008, ma bisogna dare anche una buona speranza per i fan del genere. La casa produttrice, la 3D Realms, ha dato ai redattori di Wired la possibilità di vedere la versione funzionante del videogioco e che quindi si presume a un certo punto verrà lanciata. Bene Giorgio, io ti ringrazio per averci letto e raccontato la classifica di Wired. A presto e buon lavoro. A risentirci. Bene, in effetti anche questa parte di 2024 era un po' vaporware. Ci siamo divertiti in questi ultimi minuti, vi ringraziamo come sempre per l'attenzione, grazie anche a chi scarica la versione online della nostra puntata attraverso il sito di Radio 24 con il servizio podcast. Io sono Enrico Pagliarini e vi ringrazio anche per conto di Luigi Borghi in redazione, che sta finendo le sue vacanze e tornerà la prossima settimana. Scriveteci a 2024@radio24.it. Noi ci risentiamo la prossima settimana, sabato alle 15:30. You are disconnected.